בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Ventuno e 20 minuti primi, buonasera a tutti da Blu Radio Veneto, da Gilles Facchinelli e dal sempre presente Maurizio Calzavara. Buonasera Gilles, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Stasera abbiamo una band psichedelica, possiamo dire così, Marco Ragni? Possiamo anche dirlo. Possiamo dire. Possiamo anche dirlo, ciao a tutti. Hai fatto un buon viaggio? Sì, sì, tutti, beh, sei, sì, sì, tutti sì. Sì, musicalmente si fa sempre un buon viaggio. Sì. Innanzitutto presentiamo i componenti della band. Certo, allora questa è una band che è nata da poco e quindi siamo freschi, proprio abbiamo voglia stasera. Avete voglia di suonare e di far sentire la musica vostra, chiaramente. Sì. Allora, alla chitarra acustica, alla mia sinistra, anche se non ci vede nessuno, c'è Giovanni Menarello. Benissimo, buonasera Giovanni. Ciao. Batterista lo salutiamo, buonasera batterista. Alla batteria c'è Gianluca Milani. Il nostro bassista qui di fianco. E qui al basso c'è Pietro Vicenzetti. Buonasera. Buonasera Pietro. Il gruppo, no, era un po' distratto, abbiamo detto il nome del gruppo. Sì, sì, abbiamo detto. Sì, Mind Over Club. Mind Over Club. E dunque, per parlare di Marco Ragni ci vorrebbe un'enciclopedia, un sacco di fogli, beh, chiaramente. Addirittura. Sì, perché hai fatto un sacco di cose. Da sì. Quando è iniziato, nel 75, a 6 anni, avevi un Farfisa. Sì, me l'hanno regalato. Sì, mi sono divertito Farfisa un po'. Farfisa è un bello strumento, un bel organo. Sì, mi sono divertito un po'. Se dici, sei d'accordo anche te? Mi pare che tu sia... Papà si sta ancora pentendo. Tu papà si sta ancora pentendo, praticamente. Quindi, ai 6 anni, ha cominciato a suonare l'organo. Sì, lo suonicchiavo, diciamo così. Suonavo quei pezzi, diciamo, di musica classica che avevi sullo spartito per Elisa. Quelle cose un po' così. Un po' così. Mi sono divertito, in realtà era di mio fratello e comunque mi sono avvicinato alla musica in quel modo, ecco, abbastanza divertente. Poi hai cominciato a sorseggiare musicalmente i Beatles. Quando si sorseggiano i Beatles succede sempre qualcosa di positivo. Quelli erano sempre nell'aria a casa mia, perché comunque casa mia è sempre stata una casa di musica e i Beatles, in effetti, io essendo del 69, insomma, si erano sciolti da poco. Sì, esattamente. Però io a 5-6 anni li sentivo girare nel giradischi e per me è stata una folgorazione vera e propria. E poi hai avuto un'altra folgorazione sulla via della California, la West Coast. Come mai sei folgorato sulla via della California? Quella è stata grande, non lo so, probabilmente è una cosa che ho nel DNA. C'è chi si innamora di altri generi, ovviamente. Io proprio sono rimasto folgorato sia dal periodo storico che da quello musicale. Mi sento parte di quel mondo, ecco, pur non avendoci vissuto direttamente. Anche io e Gil facciamo parte di quel mondo west coastiano. Cosa dici, Gil? Sicuramente sì. Stasera siamo in Blue Time Live, però è come fossimo rock wave, quindi la musica è tutta un assieme. La California è sempre California. Beh, sì. Stasera è molto California, fa molto caldo. Molto caldo. Molto California. Due album. 1987 e 1988, sì. Kaleido e Illumination. Illumination è un famoso disco di Santana. Illumination, come mai Illumination, Marco? Beh, lì ero ancora piccolo, insomma, ero minorenne, mi divertivo con il mio quattro tracce a registrare le prime cose. Chitarra al contrario. Bello, chitarra al contrario. Beatlesiano convinto, sì, allora, sì, chitarra al contrario, sì. Chiaramente. Mi sono divertito tanto, però insomma, sono dischi... Ma non proprio... dall'inizio della tua carriera. Poi hai trovato un accordo, una conoscenza con Diego Callegari, è stata una conoscenza importante. Sì, Diego è stato ed è un mio grande amico, adesso abita un po' distante in Polonia, però con lui è nata una bellissima collaborazione artistica e lì effettivamente sia io che lui ci siamo proprio resi conto di quello che avevamo dentro da esprimere musicalmente. E musicalmente c'era un gruppo, non dico pronunciabile un po' poco come titolo del band, come si chiamava la band? No, è semplice in realtà, è desuesada. Perfetto, che cosa vuol dire? Che in spagnolo vuol dire snocciolato. Ah, perfetto. Semplicemente perché aveva un barattolo di olive in sala prove e da lì è nato tutto. E poi hai girato moltissimo, dal 1992 al 98 hai continuato a girare, hai fatto musica live dappertutto. Sì, erano anni buoni ancora, diciamo, e quindi si suonava parecchio in giro per l'Italia in tanti locali, ti pagavano anche discretamente, quindi la musica, diciamo, originale era ancora apprezzata. Sono stati gli ultimi anni veramente buoni da sfruttare. Allora adesso ci fermiamo un secondo, se non parliamo troppo, e presentiamo un momento il progetto di adesso, 2013, ore 21:25. Certo, il progetto di adesso, dunque, è nato. Io suono da un po' di tempo da solo, mi ero messo da solo perché avevo voglia di far esplodere questo vulcano che avevo dentro. Loro avevano già una band con un'altra cantante La band si chiama Mind Over Clock, mi pare, no? Sì, sì, loro prima erano un altro gruppo e loro sono rimasti senza cantanti. Io avevo bisogno di una band, insomma. Vi siete uniti? Uno più uno fa due, ecco, ci siamo uniti, essendo più o meno della stessa città, avendo anche gusti in comune, abbiamo deciso. Vi siete uniti però in un filo conduttore, è la West Coast, secondo me. Sì. Io, quando ho sentito le tracce del disco, ho immaginato un po' David Crosby che entrava. Beh, su certe cose. David Crosby nel senso di Bahia de Cisco, quindi la California, certo, l'odore certo musicale della California. Certo, David Crosby è uno di quelli che mi ha influenzato di più, insieme, vabbè, sempre un altro David Gilmour. Anche quello. Non è californiano. Non è californiano, però, sempre David si però chiama. Un tocco di psichedelia me l'ha data anche lui, insomma, ci sono parecchi miti, ecco, c'è anche Hendrix che... Però sì, la chitarra si sentiva, cioè l'odore hendrixiano della chitarra, più o meno, odore nel senso musicale, sembra un paradosso, certo, ma certo, è così, ci sentiva. Con cosa iniziamo, Marco? Iniziamo con il primo pezzo, quello che apre l'album, che si chiama Are You There, che vede la collaborazione di Pamela Poland. Chi è Pamela Poland? Che adesso è una bellissima signora di 70 anni, ma che fu la corista di Joe Cocker nella prima tournée americana di Joe Cocker. Quella mitica tournée americana. Englishman. Esattamente. La si può anche vedere a Woodstock in mezzo alle coriste. È nata una collaborazione bellissima, simpaticissima, ci siamo conosciuti per caso e io gli ho spedito alcuni brani. Lei aveva appena prodotto un suo nuovo album insieme al chitarrista dei Doobie Brothers. Ah, assieme al chitarrista dei Doobie Brothers? Sì, uno qualunque. Uno qualunque, uno qualsiasi, esattamente. Vero Gil, uno qualsiasi, uno chitarrista dei Doobie Brothers. Lei è rimasta, è così, rimasta piacevolmente colpita dai miei brani, insomma, le ho chiesto se le andava di collaborare e in uno di questi due pezzi che compaiono in questo disco lei fa i cori, e anche se è riduttivo chiamarli cori, comunque lei eccezionale. Da una certa... Da un tocco, si sente. Un certo tocco che si sente. Si sente che ha cavalcato il periodo. Che grande periodo. Adesso sentiamo il pezzo e poi ne parliamo, certo. Ok? Thank you. Radio Veneto. Blu Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Rieccoci in onda con Blu Radio Veneto. Vi ricordo anche, per chi volesse ascoltare la nostra trasmissione, può farlo in streaming andando sul sito di Blu Radio Veneto e cliccare, vedete, entrate lì www.bluradioveneto.it, vedrete delle cuffiette, un simbolino rosso con le cuffiette, ci cliccate sopra e potete ascoltarci in diretta. Sì, benissimo. Allora abbiamo presentato il pezzo iniziale d'apertura, Are You There? Io ho scritto qualche nota, caro Marco, non so se sei d'accordo, adesso te le sparo. Sentiamo. Chitarre a momento lancinanti, proprio elettriche, proprio tirate, ma in qualche momento di musica soffusa, a tratti potrebbe incastonarsi un discorso di pop song che poi vanisce, secondo me. Cosa dici, Marco? Guarda, la musica che faccio è principalmente ciò che sono. Io sono un... Io l'ho sentito così, ho scritto queste piccole note, una mia impressione. La mia musica è veramente umorale ed esprime veramente tutto quello che ho dentro anche durante una giornata. Quindi i pezzi vanno veramente, nello stesso pezzo ci puoi trovare il passaggio di pop, sì, di classico pop, fino alla psichedelia, quella più spinta, più energica. Mi piace proprio giocare con le emozioni, anche con i colori musicali. Sì, mi piace, mi piace definirmi un impressionista della musica. Benissimo. Ritorniamo allora alla tua storia musicale. Siamo arrivati nel 1998, quindi siamo arrivati al 2000. Hai fondato un gruppo che si chiama Ezza. No, non l'ho fondato. Non l'hai fondato. Mi hanno chiamato. Hai partecipato a un gruppo che si chiama Ezza. Tra l'altro siamo venuti qui. È vero, adesso che mi ricordo. Innanzitutto, non so se si ricorda anche il nostro direttore artistico Alberto Pisco, che salutiamo, che stasera vi ha voluto fortissimamente qua. Grazie, che è in giro adesso, è nascosto da qualche parte. Sì, non l'ho fondato, in realtà anche loro cercavano un cantante e io sono arrivato, non avevo mai cantato in italiano, fu una sfida e ci siamo divertiti per 3 o 4 anni, poi ho deciso che avevo veramente voglia di esprimere quello che avevo dentro, non solamente cantare, in quel periodo feci solo il cantante. Poi hai avuto delle collaborazioni abbastanza prestigiose, Massimo Bubola, Giorgio Canali, Alessandro May, che ha scritto molti pezzi per i Nomadi. Sì, diciamo, più che collaborazioni con Bubola ci fu una specie di preaccordo, si doveva produrre, poi in realtà non vi ha prodotto. Non fine, con Canali stesso discorso, però ci frequentammo per un periodo e lo stesso con il May. Però non abbiamo collaborato, ecco, con May siamo andati avanti 3 o 4 mesi a riarrangiare i brani che avevamo, poi per vicissitudini nostre. E altre cose, le cose non sono andate. Non è scappato. Esattamente. E poi ti sei buttato anche nel funk. Nel funk. Sì, band di funky. Come mai una band di funky? Un momento. La musica è a 360 gradi, cari gli ascoltatori, può capitare. Oddio, vi farei sentire il disco che comunque si trova su iTunes, è sempre Don't funk, Forget the Music. Sì, è sempre funk psichedelico, la psichedelia è la parola. Il tuo DNA. Diciamo che ricorda un po' Sly and Family Stone, non hai detto niente, insomma. Ho tutto rispetto. Marco, leggermente più vicino al microfono. Ok, sì. Allora, quindi questo discorso di funk psichedelico, nel 2009 ti butti un'altra avventura e nel 2009 crei un'etichetta indipendente, Crow Records. Sì, la Crow Records. Sì, avevo... ormai creare etichette non è che sia così difficile. Si parla nel 2009 però, Sì. Non è adesso, è qualche anno prima. Sì. Possiamo dire di essere stato lungimirante, forse. Può darsi, sicuramente. Sì, ormai i canali erano quelli, ecco, avere un'etichetta propria e comunque distribuirsi con i vari canali di distribuzione che ormai ci sono, ormai è semplice. Il difficile è fare canzoni. Il difficile è presentare le canzoni e trovare i posti per presentarle. Esattamente, poi e suonarle. E suonarle, chiaramente. Però sì, avevo voglia di fare anche un progetto a tutto tondo, grafica, produzione e ovviamente parte artistica. A proposito di progetto a tutto tondo, caro Gil, hai visto la copertina? È molto bella, è molto psichedelica. Sì, sì. È, sc- scritta, arrangiata, creata, trovata, disegnata, tutta da Marco. Sì, sì, mi diverto anche a fare le copertine. Love at the Speed of Sound, il titolo dell'EP, vero? Sì. È così. Sì, doveva essere un EP all'inizio. Invece in è un po' si è allargato. Diciamo che la durata è sui 38 minuti. Quindi un disco ufficiale. I dischi degli anni 60 duravano, sì, usavano anche meno. Preso poco. Battiato, sì, all'epoca se ne faceva da 35-36, sì, ti ricordi? Quindi ecco, sì. Ecco. È un disco, diciamo. È un disco a tutti gli effetti. A proposito, disco a tutti gli effetti. Adesso il batterista è pronto. Vedo che è carico. È pronto per suonare il primo pezzo della scaletta di stasera. Che cosa, Marco? Il primo pezzo si chiama Istanbul Market. Non fa parte, non fa parte di questo disco. Ed è un pezzo che avevano già scritto i ragazzi. E che io ho fatto mio, diciamo. E abbiamo fatto nostro. E questa sera lo suoniamo per voi. In diretta dal vivo, chiaramente. Time warp just for a while. Every second a white page is written with their thoughts. Vivian and Sebastian spend their time in the lunchbox. In Istanbul Market, cup of tea in a carpet shop. Oh, it's a masterpiece of colors, music and spicy food. Vivian and Sebastian met a lot of faces in a good mood. Oh, in Istanbul SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Grande, grandissime sonorità, Maurizio. Sì, dici? Dobbiamo studiare una cosa e dobbiamo ringraziare il batterista che è uno spazio angusto, che ha fatto un bel rullato molto interessante, era uno spazio angusto, è stato molto bravo. Grazie, bisogna sottolineare questo. Cosa mi ricordava Marco questo pezzo? A me ricordava, non so se sei d'accordo, io te lo sparo dopo, se non sei d'accordo me lo dici subito, siamo in diretta. mi ricordava un disco di Brian Jones che lui ha fatto in Marocco. Guarda, questa cosa in realtà la devi chiedere proprio al batterista. Vieni qua, batterista. Allora, l'autore del pezzo è lui. Adesso ti avvicino un secondo. Mi ricordavo queste le sonorità di, a grandi linee, chiaramente, di un disco che ha fatto, che fece in Marocco Brian Jones dopo che aveva lasciato i Rolling Stones. Guarda, dimmi. La canzone fondamentalmente parla di una storia d'amore. Sì, al di là della storia, sì, la canzone, dimmi, parli pure del testo. Sì, sì, beh, quella è la parte, diciamo, più importante. Mm. Parla di me e fondamentalmente la mia ragazza, la mia compagna attuale, e racconta un po' di noi. E io mi sono immaginato questo nostro primo incontro, appunto, ad Istanbul. E come mai queste sonorità molto... Ho vissuto per quasi 5 anni in Egitto. Vedi, e quindi africane, sicuramente. Sì, infatti lo strumento che stavo usando prima è una darbuka egiziana. Lo puoi ripetere? Darbuka. Che sonorità ha questa? Prettamente araba. Prettamente araba, perfetto. Araba, quindi diciamo quella parte del Mediterraneo, la darbuka. Io non sono tanto molto distante dal Marocco, visto che Brian Jones ha inciso il disco nel Marocco. In Egitto e il Marocco sono abbastanza vicini, leggermente vicini, possiamo dire. Esatto. È interessante. Anche Robert Plant fece un disco simile anni fa, chiaramente. Vero? Dimmi, Giovanni, vuoi dire qualcosa? Vuoi dire niente? È un assoluto fan di Robert Plant. Robert Plant fece un disco di quel genere. Più che Robert Plant, con Jimmy Page hanno fatto una reunion negli anni 90, in cui hanno riproposto brani, diciamo, originali per l'epoca, in cui rivisitavano in chiave, diciamo, etnica, il genere classico degli Zeppelin, che già a suo tempo con Kashmir... Erano già stati esplorati certe direzioni. Dopo sono state magari sviluppate in una maniera decisamente interessante, perché l'album era veramente molto bello. Il Live Unplugged che hanno fatto negli anni 90, primi anni 90, era veramente un ottimo album. Ma questa spinta verso sonorità africane, oltre al batterista, viene direttamente da lui. Sì. Chiaramente. Però stata... cosa ci hai messo te su queste cose? No, io l'ho, diciamo... L'hai raffinato? No, anzi, al contrario. L'hai lasciato andare? Cioè, come l'ho ricostruito? L'ho ispessito un pochino, perché... Puoi dire anche alla spagnola, non c'è problema. Un pochino. No, ho deciso di... accelerare un po' quella che era la ritmica iniziale nel brano, che non era poi così marcata all'inizio, era molto meno cadenzata, perché il brano ovviamente aveva anche una direzione un pochino diversa all'inizio. Poi con Marco, con Gianluca e con Pietro, il brano si è evoluto ed è diventato come è adesso. Certo. Non era così inizialmente. Ma Gianluca l'ha proprio... adesso l'abbiamo sentito dal vivo, assolutamente, ha dato quel colore molto africano e sono stato molto soddisfatto. Al di là che lui è vissuto per... Lui per, ce l'ha nel suo DNA. Sì. Non l'aveva espresso direttamente, ha avuto bisogno di noi per tirarlo fuori, perché probabilmente quando ha fatto il brano lui aveva altre idee su come sviluppare il brano, noi lo abbiamo spinto, ma lui le ha queste sonorità dentro. La radice del ritmo nasce dall'Africa, no? Dalla madre terra. Quale meglio di questo? Sì, esatto. Mi è sparito il bassista. quel paese, insomma. L'Africa è la... Quei colori, no, dicevo. L'Africa è la madre terra di tutto, di tante cose. Tanta cose parte dall'Africa. È partita dall'Africa tanti noi anni veniamo dall'Africa. Esattamente, musicalmente parte tutto dall'Africa. Il blues parte dall'Africa. Cioè non ho mai capito che senso abbia il razzismo quando tutti siamo africani. Ah, indubbiamente. Non ce l'ha, in effetti, non ha senso. E da lì chiudiamo tutti i discorsi. Di tutti i colori. Maurizio, io ti propongo, visto che non certamente per colpa del gruppo, questa sera abbiamo iniziato un pochino in ritardo, magari di far ascoltare anche un qualcosina in più della loro musica. Sì, esattamente. Andiamo un altro pezzo allora, ragazzi. Sì. Allora, il prossimo pezzo si intitola Music is my home. Anche questo non è presente. No, questo è il brano numero 5. Ah, sì, hai ragione. Il brano numero... Esattamente. Ho cambiato la scaletta rispetto a quella che avevo dato qualche giorno fa. Quindi voi avete un album inedito. Hai voluto confondere i DJ allora in questo caso? Ho fatto proprio come negli anni 60. Noi siamo sempre pronti, vero Mauri? Bene. Quindi... Allora, dimmi, Marco, vuoi dare un po' una presentazione del testo, un secondo? Guarda, Music is my home parla proprio di quello che è la musica per me, per la mia vita, per la nostra, immagino. Se non ci fosse veramente, io parlo per me, ma ovviamente parlo per tanti, se non ci fosse la musica sarebbe veramente molto triste. Al di là delle composizioni artistiche, parlo proprio di suoni anche, la natura, senza musica sarebbe veramente triste, un po' come senza sole. Esattamente, la suoniamo allora. Certo. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Ecco, allora Maurizio, una buona notizia per noi e anche, poi anche per gli ascoltatori. Alberto Prisco ci ha concesso 10 minuti in più. Ringraziamo il nostro direttore artistico. Ecco, e quindi per gli amanti della super classifica di Alberto inizierà alle 40 anziché alle 30. Esattamente. Caro Marco, questa è una bella ballatona secondo me, che dopo si sviluppa con un finale decisamente mosso e poi col finale acustico. Una ballata, fin di conti, a mio parere. Sì, beh, io tendenzialmente faccio molte ballate. Ecco, senso positivo, assolutamente positivo. Certo, certo. Diciamo che questa è quella che tra tutte forse è quella che più si avvicina agli anni 90, grunge, esattamente. Che comunque mi ha influenzato. Certo, certamente. Avevo l'età buona in quegli anni. Sì, avevi l'età buona. Ripercorriamo i tuoi trascorsi musicali. Siamo arrivati verso il 2006 con la band funky psichedelica. Arriviamo al 2009. Sì. Cosa succede nel 2009? C'è l'etichetta e c'è un altro disco, i My Eyes. È il mio primo, il tuo primo album da solista. Il mio primo vero album solista, autoprodotto, autosuonato, autotutto. dalla copertina alle registrazioni alla distribuzione, ho fatto veramente tutto, mi sono divertito come un pazzo. Per fare quel disco, effettivamente, riascoltandolo adesso si sente che è un po' crudo rispetto agli ultimi lavori che ho fatto. Comunque, per fare quel disco registrai circa 25 canzoni, di 25 ne tenni di 13. Quindi. Ma come mai l'anno dopo, qualche mese dopo, 1969 nel 2010, nuovo album? Io di quanti mesi? Sono vulcanico, ma io in realtà faccio canzoni in continuazione, poi che mi vengano bene o no non lo so. Mi piace scrivere, mi piace molto scrivere, come per me è come leggere un libro, ecco. Ho bisogno di comporre musica, è una maniera per buttare fuori tutta l'energia che ho per quando sto bene, per creare, quando sto male, comunque per buttare fuori il dolore, è sempre qualcosa che mi spinge a scrivere canzoni. E poi non ti sei fatto mancare nulla, hai fatto anche un disco dal vivo. Sì, abbiamo fatto una data a Lugano. A Lugano. Fu una cosa un po' per caso, trovai una band un po' per caso e registrammo un bel live, devo dire, fu una cosa piacevole, ecco. E poi arriviamo nell'estate del 2012, un altro EP, Lilac Days EP, mi pare. Sì, quello è, a mio parere, il disco più riuscito. In che senso più riuscito? Perché il più riuscito, Marco? A livello di esperienza di suoni, se ascoltate i My Eyes, ascoltate Lilac Days, sentite una differenza abbastanza sostanziale a livello proprio di registrazione, parlo anche. E comunque anche a livello compositivo. È un album che comunque fu dedicato interamente a mia madre, che scomparse da lì a poco, quindi è un album molto sentito e forse anche per questo è quello che mi è riuscito e ti è rimasto dentro, sì, praticamente molto. Adesso ci fermiamo un secondo e sentiamo un altro pezzo da album. Cosa avete deciso di farsi ascoltare? La traccia numero 2, che si chiama Prayer to the Moon, preghiera alla luna. Questo è un pezzo che trovate anche su YouTube in un video bellissimo animato che sempre io mi sono messo a fare perché mi piace anche fare i video, e quindi se siete interessati a vederlo, Marco Ragni, Prayer to the Moon su YouTube, è molto divertente. Buon ascolto. Give sight Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. 21:58 qui a Blue Radio Veneto. Maurizio, ricordiamo anche con chi siamo in compagnia, magari qualcuno si è sintonizzato in questo momento. Sì, Marco Ragni, The Mind Overclock, la sua band praticamente. Musicisti potente, avete sentito cari ascoltatori, siamo in fase acustica, ma il batterista non è mica tanto, non è mica tanto acustico, no, secondo no, me. Il batterista ci dà. Ci dà, c'ha e anche ragione, gli altri, ci dà. Ci diamo tutti in effetti. Esattamente, ha perfettamente ragione. Caro Marco, questo pezzo io l'ho scritto, ho scritto qualche nota, all'inizio ero abbastanza un country, tra virgolette, ma poi si è velocizzato alla grande e poi un finale molto duro, molto elettrico. Di quale parli? Del nostro live? No, quel pezzo che abbiamo sentito. Press to the Moon. Sì, beh, anche questo riprende un po' quella che è la mia... La tua vena. La melodia però la incastri sempre dentro. Sì, ti ripeto, essendo cresciuto a Beatles, insomma, mi è un po' difficile non avere melodia, ecco. Sì. Mi piace proprio creare delle canzoni che comunque si possono cantare, si possono ascoltare, e poi qualche volta mi faccio le mie cavalcate psichedeliche, però... Che fanno bene alla salute sempre. Sì, quelle le devo fare ogni tanto, però mi piace creare la canzone, ecco. Del 2013 sono successe tante cose, hai fatto tante cose. Cosa hai fatto nel 2013? Ma ho fatto un sacco di roba, ma comunque ho scritto tantissime canzoni e soprattutto ho veramente da tanti anni la voglia di fare questo disco, questa rock opera, perché ovviamente figlio degli anni 70. È già quasi costruita oppure no? Sì, ho diciamo una trentina di brani, ho già scremato, quindi sarà un doppio album. È già costruito, mi mancano solo alcuni testi. Sto collaborando con una scrittrice di testi e presumo, l'album è praticamente già finito, lo devo cantare ovviamente. Io credo che a fine primavera uscirà. Quello è un lavoro che secondo me, diciamo, chiuderà un ciclo mio personale. Poi ovviamente con la band ci sarà da divertirsi. Con la band sicuramente ci suoneranno anche dei brani di quel disco. Esattamente, quindi l'idea di far suonare la band anche i brani di quel disco è già prefissata. Sì, alcuni sì, diciamo alcuni sì, altri insomma sono abbastanza progressive, ecco, si staccano un attimino da quello che è il mio genere classico, anche se ovviamente chi mi conosce, chi ha ascoltato i miei brani sentirà comunque... C'è anche un album in procinto con la band stessa oppure? Certo, assolutamente sì, adesso noi stiamo riarrangiando i miei pezzi, anche loro, e prima o poi inizieremo anche a comporre qualcosa insieme proprio di originale, e abbiamo già registrato alcuni brani proprio in studio e sicuramente prima dell'estate uscirà comunque un EP sicuramente. Poi... Ma la scintilla, da che pezzo è nata la scintilla con questi signori qui presenti stasera? Ma oddio, la scintilla, ti dico, un po' per necessità in realtà. Loro avevano bisogno di un cantante, io avevo bisogno di una band, ci conoscevamo, siamo amici, con alcuni non avevo mai suonato e volevo veramente suonare, soprattutto con Giovanni, non me ne vogliono gli altri due, con Giovanni con il quale Forse perché l'hai vicino. No, Giovanni, più vicino agli altri. Giovanni anni fa fu il mio spacciatore di musica, perfetto. Ma veramente mi spacciò di quella roba straordinaria, quindi io a Giovanni devo molto. È una grossa responsabilità. Lui deve molto a me, io devo molto a Giovanni, ecco. Quindi è partito da quel discorso là. Sì, avevo voglia di suonare con Giovanni perché comunque ha i gusti musicali vicini ai miei e sapevo che sarebbe venuta fuori una collaborazione interessante. Ovviamente anche con gli altri. Mi diverto tantissimo anche con loro, ci mancherebbe. La scintilla è nata un po' per necessità, ti dico un po' perché comunque conoscendo i gusti musicali dei compagni, ecco, sapevo che ci andava bene. Chiaramente sì. Poi ti dico, io la scintilla musicale in realtà è stata Four Horses, che è un pezzo che ha scritto sempre Gianluca. Che non c'è, mi pare, qua. Sì, c'è. È la 6. Vedi, hai scombinato tutto quanto. Poi ve la facciamo ascoltare perché è veramente molto bella. E io gli chiesi un giorno, se ancora prima di entrare nella band, se potevo fare la cover di questo suo brano. Perfetto. Perché mi piaceva tantissimo, l'ho rifatto un po' West Coast ovviamente, e a loro è piaciuto tantissimo tra l'altro. Quindi. Esattamente. Allora, facciamo una cosa di questo genere, visto che abbiamo poco tempo, ma visto che vogliamo sentire. Visto la scaletta che ho praticamente fatto io non serve più a niente, è stata scombinata totalmente. Allora facciamo, sentiamo un altro pezzo live, perché il live fa sempre bene, certo, alla salute. Il prossimo pezzo si chiama Who You Are. Perfetto, che dovrebbe essere secondo la mia scaletta la numero 3. La numero 3, esatto, numero quello, 3. Quello ci siamo. Ok. One, two, three, four. she told. Her eyes never show when I'm worried, but I'm sure who you are. Long after other eyes can see, something drew me down on the ground, and I'm worried, but I'm sure. Nothing can change. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Blu Time. Blu Time. Blu Time. Complimenti veramente a tutti ragazzi per queste sonorità, veramente grazie. Eccezionale anche questo duo acustico, veramente la voce di Marco. Maurizio, vorrei quasi scommetterci che hai messo questo in rotazione. Sì, sì, esatto, questa mi è piaciuta tantissimo, io ad Alberto, siamo innamorati di questo pezzo. Non lo sapevo, ragazzi, così, ve lo garantisco. Dobbiamo dire una cosa, qui l'hai fatta meno yanghiana, è molto yanghiana nel disco, assolutamente. Qui l'hai fatto un po' meno, giustamente le chitarre non sono elettriche, sono acustiche, e giustamente Giovanni mi diceva è il finale zeppeliano, sono d'accordo che è un finale zeppeliano, un omaggio ai Led Zeppelin nel finale, mi pare giusto, fa parte dell'ambiente, fa parte del nostro DNA, c'è niente da fare, noi abbiamo una certa età, ma non serve l'età, musicalmente l'età non serve. Comunque qui c'è effettivamente, veramente hai ragione, c'era Cortez the Killer. Esatto, c'era, Zuma, io non l'ho Zuma, detto, però l'hai detto Zuma. Te, siamo, possiamo essere Young qui. È uno dei miei santini sopra letto. Un grande santino, secondo me. Sì, sì, bravissimo. Sì. Pezzo molto molto bello sto pezzo. Poteva. Adesso non si usa più il singolo. Parlo col batterista che ho qua davanti. Non si usa più il singolo. Poteva anche essere un singolo questo pezzo. Sì, in effetti è il mio evergreen, ecco. Possiamo dire è stato questo. Composto un po' di tempo fa, poi li abbiamo riarrangiato e questo è uno dei pezzi che mi è riuscito meglio, ecco, diciamo così, tra anche le canzoni, gli altri sono tra le ballate, diciamo. Questa ecco. È riuscita benissimo, anche le altre in ogni caso. Ma ha avuto un grande successo qua dentro e sicuramente anche con i nostri ascoltatori. Bene, abbiamo parlato tutta la tua carriera. Io, come l'apporto della band dal vivo, che apporto da una band simile? Qua, fantastico, fantastico. Fantastico. No? Io, cioè, come giocare a calcio da soli, suonare la band. Ecco, esattamente. Dire, suonare da solo è divertente fino a un certo punto. Comporre è divertente, ma sai, collaborare con altri artisti, mescolare le idee è mescolare le idee, questo è bello, è fantastico mescolare le idee. Come mescoli le idee con Giovanni, per esempio, visto che ma io Giovanni, cioè, non ci guardiamo neanche in faccia, veramente avendo ascoltato tante cose simili non abbiamo bisogno di parlarci più di tanto, io e lui siamo veramente all'unisono per musicalmente. Pietro comunque viene dai Led Zeppelin, viene dagli anni 70, che con lui ovviamente poi ci si parla quando si compone, si dice guarda a me piacerebbe questa, io ho idea questa. Tante e Gianluca volte... dove viene Gianluca? Gianluca è una macchina, lui è una macchina e ha tantissime idee da proporre al di là della parte ritmica, lui è comunque un creativo, ha scritto tantissime canzoni anche lui, quindi ha sempre delle idee da proporre. Poi ovviamente come band si discute un po', si vede da che parte si può andare, si prova e della parte bella, ecco, di suonare con un gruppo che c'è esatto. Comunque il melting pot è quello che si dice, cioè vero. Giustissimo, mescolare le diverse esperienze e creare un sound unico. Cosa mescoliamo dal disco adesso? Allora, c'era in programma la 4 che è Northern Light, che vede anche questa la collaborazione di Pamela Polland. E poi vediamo, insomma, se eventualmente ce la facciamo col tempo. Mi sarebbe piaciuto far sentire anche Four Horses. Comunque adesso in programma c'era Northern Light. Sentiamo Northern Light allora. New night lands with the day, fills the empty space. light from the north room makes it all astonishing. Hear me, I am a part of you. Love in the hug of mother wraps around it all. I touch the ground and your trees that you nurse with love. Hear me, I'm a part of you. The empty space bears a cozy shelter to protect me from the dust. Hear me, I'm a part of you. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Caro Marco, secondo me questo è il pezzo in cui sono condensati tutti i tuoi amori, tutte le tue passioni. Ah. Può essere, sì. Può essere. Posso aver detto giusto, sì, secondo te? Ma oddio, se, gli altri che ascoltano possono avere la loro, sì, ci sono tante passioni. Non saprei, quindi, in realtà. Sì, sì, ci sono tante passioni, anche mie, chiaramente. C'è un po' di West Coast, c'è queste chitarre belle, dondolanti, che, e poi ci sono i colori. Colori del coro della bravissima. Ma questo pezzo poi parla di Madre Terra. Esattamente, quindi bello, molto bello. Inserito alla quarta traccia, quindi circa la metà. Sì. Quella è una funzione. Sempre con Pamela Pollan dai cori, che è straordinario. Colora, da un certo non so che, alza il livello già buono del pezzo. visto che abbiamo poco tempo, suoniamo ancora che cosa? Certo, ora vi suoniamo una ninna nanna, visto anche l'orario. Che bellissima questo pezzo, se è quello che dico io. Si chiama Little Boy Lullaby. Esattamente, ok. Dream, little boy, dream. Hear the string of a cloud for you to keep and tie it to your running feet. Twirl in a mesh of hair, soft as a rose, as your eyes are starting to close. Leave the stormy world outside and cuddle safely nearby. While others go and why, you'll sit with me, my child. Find a soft as splash toys and listen to the sound of my voice. Breathe in my sense so familiar while I keep. Little boy, dream. Hear the string of a cloud for you to keep and tie it to your running feet. Twirl in a mesh of hair, soft as a rose, as your eyes are starting to close. Leave the stormy world outside, got us safely nearby. While others go and why, you'll sit with me, my child. Find a soft and splash noise, listen to the sound of my voice. Breathe in my sound so familiar while I kiss you. Before you drift into cotton candy blue, before you know you'll be a man too. Blue Radio Veneto. Blue Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Blue Time. 22:19 minuti, Maurizio, ancora 21 minuti insieme a Blue Radio Veneto. Sì, insieme a Marco e la sua band. Dobbiamo sottolineare una cosa, tanto questa era una ninna nanna bellissima. Il basso pulsante di Piero, le due chitarre di Giovanni e Marco e soprattutto, io ho notato questo, il gioco tra le spastole e i piatti di Gianluca ha fatto una colorazione onirica molto bella. Molto bella, sì, in effetti questo pezzo nasceva proprio chitarra e voce nei 1969, l'abbiamo rivisitato e devo dire che con la band acquisisce ancora più... Questo è magico, fatato secondo me. Sì. E Giovanni, cioè Gianluca, con questo gioco tra le spazzole e i piatti ha dato l'input positivo al pezzo, proprio l'ha chiuso secondo me. Sì, sono d'accordo. Sono... A me è piaciuto molto, in questa versione meravigliosa, anche la versione del disco, però questa è ancora meglio secondo me. Non so. Anche a me piace di più con la band. Con la band. Forse un po' meno ninna nanna, ecco il bambino magari non si addormenterà, però sì. In effetti si divertirà. Abbiamo ancora tempo a far sentire un altro pezzo da disco che avevi scelto, mi pare. Guarda, volevo far sentire Four Horses che ha composto Gianluca Milani, il batterista, e io poi ne ho fatto una cover e poi ne abbiamo fatto una versione insieme. E questo è un brano che ricorderà molti, alcune band del passato. Benissimo, lo sentiamo. Thank you. Ricordo anche, Maurizio, dovere per chi si fosse sintonizzato per ascoltare la super classifica di Alberto, inizierà 10 minuti più tardi perché ci ha concesso questi 10 minuti in più per ascoltare il nostro gruppo. Devo parlare di questo pezzo, dovrei alzarmi in piedi, ma non lo faccio, ma idealmente mi sono alzato in piedi, idealmente mi sono buttato in questo mantra di musica di una volta e di adesso. Ma Gianluca ha fatto una cosa meravigliosa, ha cosparso di colori musicali questo pezzo e mi ha fatto ricordare tanti begli amori, tante... Piero diceva in una piccola soffitta assieme a suonare, come si faceva una volta. Non era una soffitta, era un grande campo probabilmente, ma è la stessa cosa, l'atmosfera è sempre quella, l'idea è sempre quella. Cosa dici? La poesia. La poesia, ecco, la poesia. Qui c'è un pezzo che è poesia. Poesia di colori, di sensazioni, di emozioni. Poi altro che droga, ragazzi. Cioè, più droga della musica per me non c'è. Beh, per me è il massimo stupefacente che io possa mai prendere nella mia vita. La musica mi porta in posti e paesaggi che non raggiungerei neanche con la droga più pesante, con viva la musica. Certamente, questo è un pezzo meraviglioso. Come ti hai coinvolto? Gianluca l'ho scritto. E come l'hai recepito, Giovanni, Piero e te? Guarda, all'inizio è stato... Io l'ho sentito, l'avevano già registrato loro. C'era una loro versione, mi piaceva tantissimo. E ho quasi pensato, ma perché non l'ho scritta io? E ho proprio chiesto a Gianluca, guarda, posso farne una versione mia e poi la metto online, la metto in vendita con il tuo nome? Lui mi ha detto, guarda, magari, cioè, sarebbe bellissimo. Io ho fatto la mia versione che è piaciuta tantissimo a loro. Poi ci siamo... confrontati. Sì, abbiamo mischiato le due versioni, tra virgolette, e ne abbiamo fatto una versione originale, ecco. Una bella versione, molto interessante, che ha preso totalmente me, Alberto, Gile e sicuramente anche i nostri ascoltatori. Adesso facciamo una cosa... che si fa di solito, i tuoi punti di riferimento. Lo spot. Lo spot tuo. Allora, i miei cinque dischi, compresa la raccolta e gli altri quattro di studio, si possono trovare in tutti i canali digitali, da iTunes, Spotify, Google Play, Amazon.it.com e via dicendo, tutti quei canali, quindi in MP3, su CD Baby, quindi cercando Marco Ragni si possono trovare anche i dischi fisici. E con la band stiamo registrando in questi giorni alcuni pezzi, quindi non c'è nulla. Il sito è in fase di costruzione, quindi prossimamente, entro la primavera, ci sarà anche il sito della band con tutte le informazioni del caso e i concerti che andremo a fare. Adesso stiamo facendo qualche piccola esibizione perché ancora il repertorio ci manca per fare una serata da soli, quindi suonichiamo un po' dalle nostre parti. Abbiamo intenzione un po' adesso di avvicinarci alla capitale, Milano, e vedere un po' se si riesce ancora a espandere il verbo della psichedelia in Italia. Ma certo, fa sempre bene, assolutamente. C'è il prog, c'è stato un grande concerto, un grande riunione 2 anni fa a Roma del prog, tanti gruppi prog, mi ricordo i Trip per esempio, mamma mia, sì, gruppo epocale, e perché no? Perché capitare, no? Perché comunque, no, in effetti. Maurizio, dimmi. C'è questo, oltre al ritorno al folk, mi sembra che ci sia anche un ritorno al prog, o mi sbaglio? Sì, c'è un grande ritorno al prog. Il prog è sempre per la tua gioia. Certamente, il prog è sempre stata una musica che c'era, ma era un po' nascosta. Poi è ritornata su grazie alla reunion di gente come i Trip, Rovescio della Medaglia, Rinnovato Amore del Banco del Punto Soccorso, Le Orme, eccetera. Ma non c'è solo quello, ci sono altre tante cose belle in Italia, sì, da fare, da gestire, anche quello di Marco Ragni e la sua band, chiaramente. Uno dei tanti. Certo. Uno dei tanti, non solo uno dei tanti, con molta voglia di suonare. Certo, quello assolutamente sì. Quindi, perché avete molta voglia di suonare. Ripetiamo il nome del disco, allora. Allora, il disco si chiama Love at the Speed of Sound, dei Mind Overclock. Questo ancora non si troverà in vendita per un po'. Nei concerti? Comunque, non ci sarà nei concerti forse? No, non ancora. No, ancora no. Comunque intorno a dicembre credo che inizieremo a esibirci in date solamente nostre. Ecco, adesso stiamo apparendo qua e là in qualche live acustico. Che dire? Vi suoniamo l'ultimo pezzo. È stata una bella cavalcata stasera. Ripresentiamo la band. Marco. Certo, Pietro Vicenzetti al basso, Giovanni Menarello alla chitarra acustica e Gianluca Milani alla batteria percussioni. Marco Ragni alla voce chitarra. Voce chitarra. Che personalmente devo fare, e non sono complimenti di circostanza, veramente complimenti ai ragazzi, la voce, ma anche ogni strumento, veramente ben amalgamato. Suona bene. Grazie. C'è stata un'unione di intenti con il sottoscritto, con Gil, con Alberto e con chi ci ascolta, perché la musica porta unione, più unione di così musicalmente si va avanti sempre. Con cosa terminiamo, Marco, stasera? Allora terminiamo con The Swing, sempre un pezzo scritto da Gianluca e riarrangiato poi dalla band, e vi diamo la buonanotte con questo. Grazie a tutti. E un appuntamento per il prossimo disco, Marco. Assolutamente sì, ci rivediamo qui presto, in primavera. Certamente. Grazie a Gil e a fra poco arriva Alberto Prisco con la sua, certo, classifica. Certo. Ciao Maurizio, grazie. Ciao ragazzi e ciao a tutti. Ciao, Blu Radio Veneto. I am the owner of a beautiful garden. Without gates or fences, my tree has a voice of a forbidden fruit. Its color I see is not ordinary. Leave me next to my suite. I try to choose a shade. Pretending, leave me.